ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. «Perché tante cicogne?» chiese Medardo a Curzio. «Dove volano?» Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra. S'era munito d'un cavallo e d'uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. «Volano ai campi di battaglia», disse lo scudiero, tetro. «Ci accompagneranno per tutta la strada». Il visconte Medardo aveva preso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna e voleva mostrarsi lieto di vederle. Ma si sentiva, suo malgrado, inquieto. «Cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia, Curzio?» chiese. «Anch'essi mangiano carne umana ormai», rispose lo scudiero. «Da quando la carestia ha inaridito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi. Dove ci sono cadaveri, le cicogne, i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi». Mio zio era allora nella prima giovinezza, l'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso, non distinte ancora in male e in bene. L'età in cui ogni nuova esperienza, anche macabra e inumana, è tutta trepida e calda d'amore per la vita. «E i corvi? E gli avvoltoi?» chiese. «E gli altri uccelli rapaci? Dove sono andati?» Era pallido, ma i suoi occhi scintillavano. Lo scudiero era un soldato nerastro, baffuto, che non alzava mai lo sguardo. A furia di mangiare i morti di peste, la peste ha preso anche loro. E indicò con la lancia certi neri cespugli che a uno sguardo più attento si rivelavano non di frasche, ma di penne e stecchite zampe di rapace. «Ecco che non si sa chi sia morto prima, se l'uccello o l'uomo, e chi si sia buttato sull'altro per sbranarlo», disse Curzio. Per sfuggire alla peste che sterminava le popolazioni, famiglie intere s'erano incamminate per le campagne, e l'agonia le aveva colte lì. In groppi di carcasse, sparsi per la brulla pianura, si vedevano corpi d'uomo e donna, nudi, sfigurati dai buboni, e cosa da principio inspiegabile, pennuti. Come se da quelle loro macilente braccia e costole fossero cresciute nere penne e ali. Erano le carogne d'avvoltoio mischiati ai loro resti. Già il terreno s'andava disseminando dei segni d'avvenute battaglie. L'andatura s'era fatta più lenta perché i due cavalli si impuntavano in scarti e impennate. «Cosa prende i nostri cavalli?» chiese Medardo allo scudiero. «Signore», lui rispose, «niente spiace ai cavalli quanto l'odore delle proprie budella». La fascia di pianura che stavano traversando era infatti cosparsa di carogne equine, talune supine con gli zoccoli rivolti al cielo, altre prone col muso infossato nella terra. «Perché tanti cavalli caduti in questo punto, Curzio?» chiese Medardo. «Quando il cavallo sente d'esser sventrato», spiegò Curzio, «cerca di trattenere le sue viscere. Alcuni posano la pancia a terra, altri si rovesciano sul dorso per non farle penzolare. Ma la morte non tarda a coglierli ugualmente. Dunque sono soprattutto i cavalli a morire in questa guerra. Le scimitarre turche sembrano fatte apposta per fendere d'un colpo i loro ventri. Più avanti vedrai i corpi degli uomini. Prima tocca ai cavalli e dopo ai cavalieri. Ma ecco, il campo è là». Ai margini dell'orizzonte s'alzavano i pinnacoli delle tende più alte e gli stendardi dell'esercito imperiale e il fumo. Galoppando avanti, videro che i caduti dell'ultima battaglia erano stati quasi tutti rimossi e seppelliti. Solo se ne scopriva qualche sparso membro, specialmente dita, posato sulle stoppie. «Ogni tanto c'è un dito che ci indica la strada», disse mio zio Medardo. «Che vuol dire?» «Dio li perdoni. I vivi mozzano le dita ai morti per portar via gli anelli». «Chi va là?» disse una sentinella dal cappotto ricoperto di muffe e muschi, come la corteccia d'un albero esposto a tramontana. «Viva la sacra corona imperiale!» gridò Curzio. «E che il sultano muoia!» replicò la sentinella. «Ma vi prego, arrivate al comando, dite loro quando si decidono a mandarmi il cambio, che ormai metto radici!» I cavalli ora correvano per sfuggire alla nuvola di mosche che circondava il campo, ronzando sulle montagne d'escrementi. Di molti valorosi, osservò Curzio, lo sterco d'ieri è ancora in terra e loro sono già in cielo, e si segnò. All'ingresso dell'accampamento fiancheggiarono una fila di baldacchini, sotto i quali donne ricce e spesse con lunghe veste di broccato e i seni nudi li accolsero con urla e risatacce. «Sono i padiglioni delle cortigiane», disse Curzio. «Nessun altro esercito ne ha di così belle». Mio zio già cavalcava col viso voltato indietro a guardar loro. «Attento, signore», aggiunse lo scudiero, «sono tanto sozze e impestate che non le vorrebbero neppure i turchi come preda d'un saccheggio. Ormai non son più soltanto cariche di piattole, cimici e zecche, ma indosso a loro fanno il nido gli scorpioni e i ramarri». Passarono davanti alle batterie da campo. A sera gli artiglieri facevano cuocere il loro rancio d'acqua e rape sul bronzo delle spingarde e dei cannoni, arroventato dal gran sparare della giornata. Arrivavano dei carri pieni di terra e gli artiglieri la passavano al setaccio. «Già scarseggia la polvere da sparo», spiegò Curzio. «Ma la terra dove si sono svolte le battaglie n'è tanto impregnata che volendo si può recuperare qualche carica». Dopo venivano gli stalli della cavalleria, dove tra le mosche i veterinari sempre all'opera rabberciavano la pelle dei quadrupedi con cuciture, cinti ed empiastre di catrame bollente, tutti nitrendo e scalciando, anche i dottori. Gli attendamenti delle fanterie seguitavano poi per un gran tratto. Era il tramonto. E davanti a ogni tenda i soldati erano seduti coi piedi scalzi immersi in tinozze d'acqua tiepida. Soliti come erano a improvvisi allarmi notte e giorno, anche nell'ora del pediluvio tenevano l'elmo in testa e la picca stretta in pugno. In tende più alte, drappeggiate a chiosco, gli ufficiali si incipriavano le ascelle e si facevano vento con ventagli di pizzo. «Non lo fanno per effeminatezza», disse Curzio, «anzi, vogliono mostrare di trovarsi completamente a loro agio nelle asprezze della vita militare». Il visconte di Terralba fu subito introdotto alla presenza dell'imperatore. Nel suo padiglione tutto arazzi e trofei, il sovrano studiava sulle carte geografiche i piani di future battaglie. I tavoli erano ingombri di carte srotolate e l'imperatore vi piantava degli spilli, traendoli da un cuscinetto puntaspilli che uno dei marescialli gli porgeva. Le carte erano ormai tanto cariche di spilli che non ci si capiva più niente e per leggervi qualcosa dovevano togliere gli spilli e poi rimetterceli. In questo togli e metti, per avere libere le mani, sia l'imperatore che i marescialli tenevano gli spilli tra le labbra e potevano parlare solo a mugolii. Alla vista del giovane, che si inchinava davanti a lui, il sovrano emise un mugolio interrogativo e si cavò tosto gli spilli dalla bocca. «Un cavaliere appena giunto dall'Italia, maestà», lo presentarono. «Il visconte di Terralba, d'una delle più nobili famiglie del genovesato». «Sia nominato subito tenente!» Mio zio batté gli speroni, scattando sull'attenti, mentre l'imperatore faceva un ampio gesto regale e tutte le carte geografiche s'avvolgevano su se stesse e rotolavano giù. Quella notte, benché stanco, Medardo tardò a dormire. Camminava avanti e indietro vicino alla sua tenda e sentiva i richiami delle sentinelle, i cavalli nitrire e il rotto parlar nel sonno di qualche soldato. Guardava in cielo le stelle di Boemia, pensava al nuovo grado, alla battaglia dell'indomani e alla patria lontana, al suo fruscio di canne nei torrenti. In cuore non aveva né nostalgia, né dubbio, né apprensione. Ancora per lui le cose erano intere e indiscutibili. E tale era lui stesso. Se avesse potuto prevedere la terribile sorte che l'attendeva, forse avrebbe trovato anch'essa naturale e compiuta, pur in tutto il suo dolore. Tendeva lo sguardo al margine dell'orizzonte notturno, dove sapeva essere il campo dei nemici, e a braccia conserte si stringeva con le mani le spalle, contento d'aver certezze insieme di realtà lontane e diverse e della propria presenza in mezzo a esse. Sentiva il sangue di quella guerra crudele sparso per mille rivi sulla terra giungere fino a lui e se ne lasciava lambire, senza provare accanimento né pietà. La battaglia cominciò puntualmente alle 10 del mattino. Dall'alto della sella il luogotenente Medardo contemplava l'ampiezza dello schieramento cristiano, pronto per l'attacco, e protendeva il viso al vento di Boemia, che sollevava odor di pula come da un'aia polverosa. «No, non si volta indietro, signore!» esclamò Curzio, che col grado di sergente era al suo fianco. E per giustificare la frase perentoria aggiunse piano: «Dicono porti male, prima del combattimento. In realtà non voleva che il visconte si scorasse, avvedendosi che l'esercito cristiano consisteva quasi soltanto in quella fila schierata e che le forze di rincalzo erano appena qualche squadra di fanti male in gamba. Ma mio zio guardava lontano, alla nuvola che si avvicinava all'orizzonte, e pensava: «Ecco, quella nuvola è i turchi, i veri turchi. E questi al mio fianco che sputano tabacco sono i veterani della cristianità. E questa tromba che ora suona è l'attacco, il primo attacco della mia vita. E questo boato e scuotimento, il bolide che si insacca in terra guardato con pigra noia dai veterani e dai cavalli, è una palla di cannone, la prima palla nemica che io incontro. Così non venga il giorno in cui dovrò dire: e questa è l'ultima». A spada sguainata si trovò a galoppare per la piana, gli occhi allo stendardo imperiale che spariva e riappariva tra il fumo, mentre le cannonate amiche ruotavano nel cielo sopra il suo capo e le nemiche già aprivano brecce nella fronte cristiana e improvvisi ombrelli di terriccio. Pensava: «Vedrò i turchi! Vedrò i turchi!» Nulla piace agli uomini quanto avere dei nemici e poi vedere se sono proprio come ci si immagina. Li vide i turchi. Ne arrivavano due proprio di lì, coi cavalli intabarrati, il piccolo scudo tondo di cuoio, la veste a righe nere e zafferano, e il turbante, la faccia color ocra e i baffi come uno che a Terralba era chiamato Michele il Turco. Uno dei due turchi morì e l'altro uccise un altro. Ma ne stavano arrivando chissà quanti e c'era il combattimento all'arma bianca. Visti i due turchi era come averli visti tutti. Erano militari pure loro e tutte quelle robe erano dotazione dell'esercito. Le facce erano cotte e cocciute come i contadini. Medardo, per quel che era vederli, ormai li aveva visti. Poteva tornarsene da noi a Terralba in tempo per il passo delle quaglie. Invece aveva fatto la ferma per la guerra. Così correva, scansando i colpi delle scimitarre, finché non trovò un turco basso a piedi e l'ammazzò. Visto come si faceva, andò a cercarne uno alto a cavallo e fece male, perché erano i piccoli i dannosi. Andavano fin sotto i cavalli con quelle scimitarre e li squartavano. Il cavallo di Medardo si fermò a gambe larghe. «Che fai?» disse il visconte. Curzio sopraggiunse indicando in basso. «Guardi un po' lì!» Aveva tutte le coratelle di già in terra. Il povero animale guardò in su al padrone, poi abbassò il capo come volesse brucare gli intestini, ma era solo uno sfoggio d'eroismo. Svenne e poi morì. Medardo di Terralba era appiedato. «Prenda il mio cavallo, tenente!» disse Curzio, ma non riuscì a fermarlo perché cadde di sella, ferito da una freccia turca, e il cavallo corse via. «Curzio!» gridò il visconte e s'accostò allo scudiero che gemeva in terra. «Non pensi a me, signore», fece lo scudiero. «Speriamo solo che all'ospedale ci sia ancora della grappa. Ne tocca una scodella a ogni ferito». Mio zio Medardo si gettò nella mischia. Le sorti della battaglia erano incerte. In quella confusione pareva che a vincere fossero i cristiani. Di certo avevano rotto lo schieramento turco e aggirato certe posizioni. Mio zio, con altri valorosi, s'era spinto fin sotto le batterie nemiche e i turchi le spostavano per tenere i cristiani sotto fuoco. Due artiglieri turchi facevano girare un cannone a ruote. Lenti com'erano, barbuti, intabarrati fino ai piedi, sembravano due astronomi. Mio zio disse: «Adesso arrivo lì e li aggiusto io». Entusiasta e inesperto, non sapeva che ai cannoni ci si avvicina solo di fianco o dalla parte della culatta. Lui saltò di fronte alla bocca da fuoco, a spada sguainata, e pensava di far paura a quei due astronomi. Invece gli spararono una cannonata in pieno petto. Medardo di Terralba saltò in aria. Alla sera, scesa la tregua, due carri andavano raccogliendo i corpi dei cristiani per il campo di battaglia. Uno era per i feriti e l'altro per i morti. La prima scelta si faceva lì sul campo. «Questo lo prendo io, quello lo prendi tu». Dove sembrava ci fosse ancora qualcosa da salvare, lo mettevano sul carro dei feriti. Dove erano solo pezzi e brani, andava sul carro dei morti, per aver sepoltura benedetta. Quello che non era più neanche un cadavere, era lasciato in pasto alle cicogne. In quei giorni, viste le perdite crescenti, s'era data la disposizione che nei feriti era meglio abbondare. Così i resti di Medardo furono considerati un ferito e messi su quel carro. La seconda scelta si faceva all'ospedale. Dopo le battaglie, l'ospedale da campo offriva una vista ancor più atroce delle battaglie stesse. In terra c'era la lunga fila delle barelle con dentro quegli sventurati e tutto intorno imperversavano i dottori, strappandosi di mano pinze, seghe, aghi, arti amputati e gomitoli di spago. Morto per morto, a ogni cadavere facevano di tutto per farlo tornare vivo. Sega qui, cuci là, tampona falle. Rovesciavano le vene come guanti e le rimettevano al suo posto con dentro più spago che sangue, ma rattoppate e chiuse. Quando un paziente moriva, tutto quello che aveva di buono serviva a racconciare le membra di un altro, e così via. La cosa che imbrogliava di più erano gli intestini. Una volta srotolati, non si sapeva più come rimetterli. Tirato via il lenzuolo, il corpo del visconte apparve orrendamente mutilato. Gli mancava un braccio e una gamba, non solo, ma tutto quel che c'era di torace e d'addome tra quel braccio e quella gamba era stato portato via, polverizzato da quella cannonata presa in pieno. Del capo restavano un occhio, un orecchio, una guancia, mezzo naso, mezza bocca, mezzo mento e mezza fronte. Dell'altra metà del capo c'era più solo una pappetta. A farla breve se n'era salvato solo metà, la parte destra, che peraltro era perfettamente conservata, senza neanche una scalfittura, escluso quell'enorme squarcio che le aveva separata dalla parte sinistra, andata in bricioli. I medici, tutti contenti. Oh, che bel caso! Se non moriva nel frattempo, potevano provare anche a salvarlo. E gli si misero d'attorno, mentre i poveri soldati con una freccia in un braccio morivano di setticemia. Cucirono, applicarono, impastarono, chi lo sa cosa fecero. Fatto sta che l'indomani mio zio aperse l'unico occhio, la mezza bocca, dilatò la narice e respirò. La forte fibra di Terralba aveva resistito. Adesso era vivo e dimezzato. Quando mio zio fece ritorno a Terralba, io avevo 7 o 8 anni. Fu di sera, già a buio. Era ottobre. Il cielo era coperto. Il giorno avevamo vendemmiato e attraverso i filari vedevamo nel mare grigio avvicinarsi le vele d'una nave che batteva bandiera imperiale. Ogni nave che si vedeva allora si diceva «Questo è Mastro Medardo che ritorna!» Non perché fossimo impazienti che tornasse, ma tanto per avere qualcosa da aspettare. Quella volta avevamo indovinato. Ne fummo certi alla sera quando un giovane chiamato Fiorfiero, pigiando l'uva in cimaltino, gridò «Oh, laggiù!» Era quasi buio e vedemmo in fondovalle una fila di torce accendersi per la mulattiera. E poi, quando passò sul ponte, distinguemmo una lettiga trasportata a braccia. Non c'era dubbio. Era il visconte che tornava dalla guerra. La voce si sparse per le vallate. Nella corte del castello s'aggruppò gente, familiari, famiglie, vendemmiatori, pastori, gente d'arme. Mancava solo il padre di Medardo, il vecchio visconte Aiolfo, mio nonno, che da tempo non scendeva più neanche nella corte. Stanco delle faccende del mondo, aveva rinunciato alle prerogative del titolo a favore dell'unico suo figliolo maschio, prima che gli partisse per la guerra. Ora la sua passione per gli uccelli, che allevava dentro il castello in una grande voliera, s'era andata facendo più esclusiva. Il vecchio s'era portato in quell'uccelliera anche il suo letto, e ci s'era chiuso, e non ne usciva né di giorno né di notte. Gli porgevano i pasti assieme al becchime per i volatili, attraverso le inferriate dell'uccelliera, e Aiolfo divideva ogni cosa con quelle creature. E passava le ore accarezzando sul dorso i fagiani, le tortore, in attesa del ritorno dalla guerra di suo figlio. Nella corte del nostro castello io non avevo mai visto tanta gente. Era passato il tempo, di cui ho solo sentito raccontare, delle feste e delle guerre tra vicini. E per la prima volta m'accorsi di come i muri e le torri fossero in rovina, e fangosa la corte, dove osavamo dare l'erba alle capre e riempire il truogolo ai maiali. Tutti, aspettando, discutevano di come il visconte Medardo sarebbe ritornato. Da tempo era giunta la notizia di gravi ferite che egli aveva ricevute dai turchi, ma ancora nessuno sapeva di preciso se fosse mutilato o infermo o soltanto sfregiato dalle cicatrici. E ora l'aver visto la lettiga ci preparava al peggio. Ed ecco la lettiga veniva posata a terra, e in mezzo all'ombra nera si vide il brillio d'una pupilla. La grande vecchia balia Sebastiana fece per avvicinarsi, ma da quell'ombra si levò una mano, con un aspro gesto di diniego. Poi si vide il corpo nella lettiga agitarsi in uno sforzo angoloso e convulso, e davanti ai nostri occhi Medardo di Terralba balzò in piedi, puntellandosi a una stampella. Thank you. Un mantello nero col cappuccio gli scendeva dal capo fino a terra. Dalla parte destra era buttato all'indietro, scoprendo metà del viso e della persona stretta alla stampella, mentre sulla sinistra sembrava che tutto fosse nascosto e avvolto nei lembi e nelle pieghe di quell'ampio drappeggio. Stette a guardarci, noi in cerchio attorno a lui, senza che nessuno dicesse parola. Ma forse con questo occhio fisso non ci guardava affatto, voleva soltanto allontanarci da sé. Un'alzata di vento venne su dal mare e un ramo rotto in cima a un fico mandò un gemito. Il mantello di mio zio ondeggiò e il vento lo gonfiava, lo tendeva come una vela e si sarebbe detto che gli attraversasse il corpo, anzi che questo corpo non ci fosse affatto e il mantello fosse vuoto come quello di un fantasma. Poi, guardando meglio, vedemmo che aderiva come a un'asta di bandiera e quest'asta era la spalla, il braccio, il fianco, la gamba, tutto quello che di lui poggiava sulla gruccia e il resto non c'era. Le capre osservavano il visconte col loro sguardo fisso e inespressivo. Girate ognuna in una posizione diversa ma tutte serrate, con i dorsi disposti in uno strano disegno d'angoli retti. I maiali, più sensibili e pronti, strillarono e fuggirono urtandosi tra loro con le pance e allora neppure noi potemmo più nascondere ed essere spaventati. «Figlio mio!» gridò la balia Sebastiana e alzò le braccia. «Meschinetto!» Mio zio, contrariato ad aver destato in noi tale impressione, avanzò la punta della stampella sul terreno e con un movimento a compasso si spinse verso l'entrata del castello. Ma sui gradini del portone s'erano seduti a gambe incrociate i portatori della lettiga, tipacci mezzi nudi, con gli orecchini d'oro e il cranio rasato su cui crescevano creste o code di capelli. Si rizzarono e uno con la treccia che sembrava il loro capo disse: «Noi aspettiamo il compenso, signor!» «Quanto?» chiese Medardo. E si sarebbe detto che ridesse. L'uomo con la treccia disse: «Voi sapete qual è il prezzo per il trasporto di un uomo in lettiga». Mio zio si sfilò una borsa dalla cintola e la gettò tintinnante ai piedi del portatore. Costui la soppesò appena ed esclamò: «Ma questo è molto meno della somma pattuita, signor!» Medardo, mentre il vento gli sollevava il lembo del mantello, disse: «La metà». Oltrepassò il portatore e, spiccando piccoli balzi sul suo unico piede, salì i gradini. Entrò per la grande porta spalancata che dava nell'interno del castello, spinse a colpi di gruccia entrambi i pesanti battenti che si chiusero con fracasso e ancora, poiché era rimasto aperto l'usciolo, lo sbatté, scomparendo ai nostri sguardi. Da dentro continuammo a sentire i tonfi alternati del piede e della gruccia, che muovevano nei corridoi verso l'ala del castello dove erano i suoi alloggi privati, e anche là sbattere e inchiavardar di porte. Fermo dietro l'inferriata dell'uccelliera, lo attendeva suo padre. Medardo non era neppure passato a salutarlo. S'era chiuso nelle sue stanze solo e non volle mostrarsi o rispondere neppure alla balia Sebastiana che restò a lungo a bussare e a compatirlo. La vecchia Sebastiana era una gran donna nero vestita e velata, con il viso rosa senza una ruga, tranne quella che quasi le nascondeva gli occhi. Aveva dato il latte a tutti i giovani della famiglia Terralba ed era andata a letto con tutti i più anziani e aveva chiuso gli occhi a tutti morti. Ora andava e tornava per le logge dall'uno all'altro di due rinchiusi e non sapeva come venire in loro aiuto. L'indomani, poiché Medardo continuava a non dar segno di vita, ci rimettemmo alla vendemmia. Ma non c'era allegria e nelle vigne non si parlava d'altro che della sua sorte, non perché ci stesse molto a cuore, ma perché l'argomento era attraente e oscuro. Solo la balia Sebastiana rimase nel castello, spiando con attenzione ogni rumore. Ma il vecchio Iolfo, quasi prevedendo che il figlio sarebbe ritornato così triste e selvatico, aveva già da tempo addestrato uno dei suoi animali più cari, una verla, a volare fino all'ala del castello in cui erano gli alloggi di Medardo, allora vuoti, e a entrare per la finestrella della sua stanza. Quel mattino il vecchio aperse lo sportello alla verla, ne seguì il volo fino alla finestra del figlio, poi tornò a spargere il becchime alle gazze e alle cince, imitando i loro zirli. Di lì a poco sentì il tonfo d'un oggetto scagliato contro le impannate. Si sporse fuori e sul cornicione c'era la sua verla stecchita. Il vecchio la raccolse nel cavo delle mani e vide che un'ala era spezzata, come avessero tentato di strappargliela. Una zampina era troncata come per la stretta di due dita e un occhio era divelto. Il vecchio strinse la verla al petto e prese a piangere. Si mise a letto lo stesso giorno e i famigli di là delle inferriate della voliera vedevano che stava molto male. Ma nessuno poté andare a curarlo, perché s'era chiuso dentro nascondendo le chiavi. Intorno al suo letto volavano gli uccelli. Da quando s'era coricato, avevano preso tutti a svolazzare e non volevano posarsi né smettere di battere le ali. La mattina dopo, la balia, affacciandosi all'uccelliera, vide che il visconte Aiolfo era morto. Gli uccelli erano tutti posati sul suo letto, come su un tronco galleggiante in mezzo al mare. Manuela Mandracchia ha letto Il Visconte Dimezzato di Italo Calvino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.